Che cosa si doveva fare? La mia domanda era questa. Eccomi a voi, Adolfo Rossi, classe 1857. Luogo di nascita Valdentro, un pugno di case sul confine fra Lendinara, Fratta Polesine e Villanova, nel Veneto. Di mestiere giornalista. Scrivo per passione pura dai tempi del ginnasio. Avevo 18 anni quando la morte di mio padre mi costrinse ad abbandonare gli studi e a cercare lavoro. Trovai un impiego all'ufficio postale di Rovigo. Insofferente come un uccello in gabbia, la notte sotto i ponti tessevo soliloqui. Le storie vivono sulle strade. Mi imbarcai per l'America. Non dissi nulla neppure a mia madre. A New York ho fatto il venditore ambulante e il cameriere. In Colorado ho lavorato nelle miniere di carbone. E qui, con i minatori, che presero vita ai miei primi libri inchiesta. Un italiano in America e il paese dei dollari. Assai d'aiuto mi sono stati i consigli del mio maestro spirituale e concittadino Alberto Mario, fin da quando ero ancora uno studente. Si nutra di studi storici. Si attenga a pochi libri, ma che siano di prim'ordine. Si eserciti continuamente e si guardi dai neologismi e dalle forme false che infestano la prosa dei giornali. Non abbia fretta di mostrarsi al pubblico. Non ero mai stato in Sicilia prima di quell'anno, il 1893. Come molti di voi certamente ricorderanno, dopo i fatti avvenuti in gennaio a Caltavuturo, nel Palermitano, dove le truppe regie fecero 11 vittime tra i contadini affamati che occupavano la terra, sulla situazione nell'isola era calato il silenzio. Fu solo all'inizio di ottobre che i giornali del continente cominciarono a pubblicare brevi informazioni, per lo più dispacci di polizia, che dicevano: «Cresce in Sicilia l'agitazione promossa dai fasci dei lavoratori. Un movimento composto da contadini, braccianti e operai delle miniere. 300.000 sarebbero gli iscritti, uomini e donne, più di 100 le sezioni e ogni giorno ne nascono di nuove». Per quanto mi riguarda, decisi all'istante di progettare un giro nell'isola. Né mi lasciai fuorviare dal fatto che nessun altro giornalista avesse deciso di farlo. Per più di un mese, tra l'ottobre e il novembre del 1893, ho percorso in lungo e in largo le strade di Sicilia, quasi sempre a dorso di mulo, fino ai più remoti paeselli di terra e di montagna, preoccupandomi solo di studiare i fasci e di parlare con la gente che li componeva. Le donne erano le più ardenti. Ho visitato paesi in cui l'entusiasmo era giunto al punto di sostituire ogni altra fede. Donne che prima erano religiosissime non credevano che ai fasci e per essi morivano. A Roma i miei articoli suscitarono un gran dibattito. Furono portati in Parlamento e tradotti anche all'estero. Per me non avevano altro pregio che quello della sincerità. Ho raccontato ciò che ho visto, senza preconcetti. Senza censure. Oggi che il processo di Palermo è finito, come tutti sappiamo, ho deciso di ripubblicare quegli articoli in un volumetto che spero venga letto negli anni. È l'unica testimonianza diretta esistente di quei fatti. Una storia finisce, la storia continua. Alla fine è la risposta. La mia prima alba in Sicilia sorge sul mare di Palermo. A 30 anni dallo sbarco dei Mille e dal plebiscito per l'annessione al Regno d'Italia, la Sicilia rimane la più sconosciuta e lontana delle nostre più lontane province. So di non avere davanti a me un'inchiesta facile. Questa agitazione nelle campagne siciliane viene considerata a Roma come un affare di ordine pubblico. Di sicuro, a sentire il giovane cronista locale che stamane mi ha fatto una sintesi assai utile del punto in cui siamo, l'agitazione è seria. I fasci sono forti e la cosa più sorprendente è la rapidità con cui si è sviluppato un esercito di contadini laceri che risponde ad una parola sola. Il fascio di Palermo è il più importante di tutti i fasci dell'isola. Conta 11.000 iscritti e pubblica un foglio regionale, La Giustizia Sociale. Sta qui, in via Alloro al Civico 97. È il primo che visito. Ho telegrafato e mi aspettano. Appena entrato, vedo in fondo alla stanza il palco di un teatrino e appoggiate al muro le tabelle che si portano alle dimostrazioni, con grandi scritte a caratteri neri. Nel corridoio intravedo campioni di rotoli di stoffe e tabelle con i prezzi ridotti di mugnai, barbieri, calzolai. Ecco venirmi incontro i capi del movimento. Cosa notevole, sono tutti giovanotti sulla trentina o giù di lì. Rosario Garibaldi Bosco, capo del fascio di Palermo, ha 27 anni. Nicola Barbato di Piana dei Greci ne ha 33. Bernardino Verro di Corleone, 27. Ditemi, come nascono i fasci? Parlate con franchezza. Saremo schietti, non temete. Io, Rosario Garibaldi Bosco, ho cominciato a capire che avevo 12 anni. A 15 ero già segretario di tutte le associazioni popolari di Palermo e parlavo di salario con gli operai del porto. A 20 anni, visto che queste associazioni erano sempre divise, me ne sono andato a Parigi a studiare il modello della Bourse du Travail e ho così organizzato i fasci, divisi per mestieri con uno statuto comune. Nelle nostre sedi abbiamo aperto cooperative di consumo. Da noi si studia, si legge, ci si diverte. Siamo noi che abbiamo inventato il teatro sociale. In Europa non esisteva. I latifondisti vi accusano di insurrezione. Chiedono al governo lo scioglimento dei fasci. Che rispondete? I ricchi proprietari invocano l'ordine pubblico perché vogliono tenere i contadini nell'abbrutimento. Noi abbiamo semplicemente detto: voi siete tutto. Risvegliate la vostra coscienza. Uniti potrete migliorare la vostra condizione. Gli abbiamo esposto il programma dei fasci. E loro ci hanno teso le braccia. Vedrà che progressi abbiamo fatto in pochi mesi. Siamo diventati un tuono fragoroso. Dunque, a sentirvi, è sorto in Sicilia un movimento popolare organizzato, il primo in Italia. Che ne pensa il commissario governativo Sensales? Fratelli miei, arrivo ora da Castel Termini. 18 ore a piedi mi ci vollero. È arrivato in paese un battaglione di truppa armata. Hanno arrestato molti soci del fascio senza mandato di autorità giudiziaria. Altri fratelli si sono dati di notte alla campagna. Chi sono questi fratelli? E la causa degli arresti? Noi chiamiamo fratelli i soci del fascio. La causa degli arresti la sappiamo forse. Quello che posso dirvi è che abbiamo un grande sciopero di contadini per i contratti e che a causa delle paghe misere ci siamo uniti anche noi zolfatari. I proprietari, per soverchieria, hanno chiuso tutte le miniere. Miseria e fame sono grandi! Accompagno Garibaldi Bosco che va a visitare i fasci della provincia di Girgenti. Con noi viaggiano anche Giuseppe De Felice Giuffrida, capo del fascio di Catania, e la figlia Maria, una giovinetta di 14 anni che mi parla di giustizia sociale con il fervore di una missionaria. Attraversiamo paesaggi dove pare regnare una grande solitudine. Ci sono viaggiatori che salgono sul treno armati di fucile. Un'ora al tramonto. Dalla stazione di Sommatino abbiamo preso la carrozza di posta per il paese di Canicattì. Il fascio locale, uno dei più grossi della provincia di Girgenti, conta 2.000 soci. Intorno a noi si dispiegano adesso terre assai fertili, ma non ci vedo anima viva. A proposito di terre, a Palermo il prefetto mi ha confermato che dal 60 in qua il prezzo degli affitti è aumentato del 40%, mentre è diminuito del pari quello del frumento. I proprietari scaricano la colpa sulle politiche dei vari governi. Ho girato la questione al commissario Sensales e lui mi ha risposto con la solita flemma, come uno che chiacchiere di golf al club. Che vogliono questi siciliani? Nel 1860 qui non c'era un solo chilometro di ferrovia né un becco di luce a gas. Entriamo a Canicattì che è già calata la notte. Vista l'ora, nessuno certamente sarà rimasto ad aspettarci. Sono senza parole. Donne e uomini e ragazzi a piedi nudi, da 2 a 3.000 persone cenciose e rattoppate, con la fanfara e i gonfaloni, ci corrono incontro dai vicoli con un entusiasmo incredibile. Che cosa domandate? Voi che bagnate la terra del vostro sudore! Pane, pane e ciabatte! Che devo dire? Una processione così imponente non l'avrei mai creduta. I contadini con le carmagnole nere, le donne, gli stendardi. Mi sembrava una dimostrazione della Salvation Army, ma più seria. Sono ospite di un giovane barone, uno dei pochi a dirmi che l'agitazione dei contadini ha fondamento in una insopportabile miseria. Ieri ho seguito i capi dei fasci in giro nella zona. Dappertutto ho visto lo stesso entusiasmo. Sento necessario riferirlo per dare un'idea del fermento che regna in queste province e del sentimento di solidarietà che dai contadini si va estendendo a impiegati, studenti e perfino funzionari pubblici. Insomma, ovunque vanno questi giovanotti mettono sotto sopra i paesi. Un'onda immensa di popolo li va ad accogliere. Adesso però voglio continuare il mio giro da solo, lontano dai capi e dalle dimostrazioni. Sono tornato sulle scale dell'antico palazzo. Ho ascoltato il rumore della notte. Il silenzio conserva l'eco sospesa di 1.000 voci. Da Palermo si arriva a Piana dei Greci in 3 ore e mezzo, quando si abbia un buon mulo come questo. La strada è una continua, faticosa, erta salita. Ma quanto è bella! Piana dei Greci sta a 700 metri d'altezza. È un vero paese di montanari che ha mantenuto la lingua dei padri e il rito greco nelle chiese. Le donne portano in testa mantelline ricamate e conservano costumi splendidi, che usano solo nelle grandi occasioni come il matrimonio. Ce n'è di bellissime, che camminano diritte e maestose come tante regine. Popolazione di 9.000 abitanti, questo paese conta un fascio importante di 2.500 uomini e 1.000 donne. I cronisti palermitani mi hanno detto che le contadine di Piana parlano in pubblico e con vera eloquenza. Arrivo alla sede mentre si sta preparando la festa per l'inaugurazione della bandiera della sezione femminile. Saputo chi sono e il motivo del mio viaggio, mi invitano a entrare con grande cordialità. Com'è successo che questo fascio è diventato in poco tempo così numeroso? Perché abbiamo capito subito che per avere qualche cosa dovevamo cominciare con l'unirci. Mio marito trova di travagliare 6 mesi all'anno. Ci danno 7-8 lire alla settimana. Quando non chiove. E come fate quando è disoccupato? Mangiamo erbe, crude e senza sale. Che cosa sperate dai fasci? Vogliamo lavorare tutti. Dobbiamo avere tutto il pane per noi e per i figli. Io ho 5 bambini e una sola cammaretta. Dormiamo a terra, sulla paglia. Quando lavoriamo in campagna, dormiamo all'aperto. Se chiove, nasciuco vento. E così vorreste dividere le terre e le case? No. Basta che si mettono in comune e si distribuisce con giustizia quello che rendono. Per farci vedere come ci trattano, portai al delegato di pubblica sicurezza il pane che ci donano i padroni. Era così nero e pieno di terra che non lo potevano mangiare manchi i cani. E non ci dite niente dei baffi? Ah, prima du fascio, in tutta la Sicilia i signori ne obbligavano a tutti noi contadini a tagliarne completamente la barba. Ma ora, per protesta, tutti ne ficimo crescere i baffi. Loro ce l'hanno con noi oggi, pure picchisso. Ne minacciano e ne ricino. Veremo st'inverno, quando avete più fame di ora. Viremo allora se vi mangiate i baffi. L'usura ne massacra. La settimana passata volevo andare a trovare le mie figlie che sono a servizio a Palermo. E per pagarmi il viaggio sono dovuta andare dallo strozzino. Qui non abbiamo Monte di Pietà, ma solo certi usurai, che prima erano poveracci come noi. Quando poi si sono arricchiti, vanno a stare a Palermo o a Napoli e ci lasciano alle prese con altri strozzini prepotenti che ci dicono che per chi fa la legge, non c'è legge. Io ho avuto il marito malato per 7 anni. Al municipio ci dissi che non lo potevo pagare il fuocatico. Mi risposero che non ci importava. Avevi a pagare e basta. Ah, pagate per accendere il fuoco? Sicuro. Non pagano solo i mendicanti che dormono nei fienili. Pure chi dica hanno una cameretta diroccata hanno a pagare. Altrimenti ci va all'assa. Vedete? Per i poveri non c'è giustizia a Piana dei Greci. Ma quando pure i vostri uomini fossero padroni del comune, non per questo potranno levare le tasse? Usapemo, cacamore, i nostri consiglieri un po' non fare avucio che impedire gli abusi dei signori che comandano pure al comune. Ma i fasci eleggeremo anche consiglieri provinciali e deputati. E quando alla Camera di Roma avremo la maggioranza... I fasci però finora esistono solo in Sicilia. Noi speriamo che nascono presto pure nel continente. Vedete come si moltiplicano qua. Fino alla primavera passata anche noi non sapevamo che cos'erano. Morivamo de fame e tacevamo. Eravamo ciechi, non ci vedevamo. È proprio per impedire che si propaghino nel resto del regno che qualcuno vorrebbe sciogliere i fasci siciliani. Voi siete un'isola. Se il governo vi circonda con qualche nave da guerra e manda qui molti soldati, che volete fare? Morire. E il nostro sangue griderebbe vendetta sentendo che ci massacrano solo perché chiediamo pane e lavoro. In che relazione siete con i preti? Gesù voleva quello che chiedono i fasci, ma certi preti non lo rappresentano bene. A giugno, per protestare contro la guerra che qualcuno di loro ci faceva, nessuno di noi andò alla processione del Corpus Domini. Era la prima volta che succedeva un fatto simile. È vero che al fascio accettate anche i pregiudicati? Li accettiamo per renderli migliori. I veri delinquenti sono i proprietari, stupratori di contadinelle e bastonatori di urnatari. Che mi dite del vostro presidente, Nicolò Barbato? È un medico assai istruito. Se sto fascio è tanto unito, è merito suo. Che rimase a esercitare la medicina a ca, onde nascio. E ave 3 anni che istruisce i contadini. Dopo l'ultimo tumulto l'accusarono di predicare l'odio di classe, ma quella furia scoppiò perché ci hanno negato il cordone sanitario che avevamo chiesto, visto che a Palermo c'era colera. Nuddu fu ferito. Un picciotto che voleva scippare do muro do municipio i ritratti del re e della regina lo convincemmo a lasciare perdere. Ma lo stesso carcerarono 37 cristiani, compresa una femmina incinta di 8 mesi. Nicolò Barbato fu accusato di associazione di malfattori. Ma sta associazione siamo 2500 uomini e 1000 femmine. Ma la carcerare a tutti. A chi abbiamo fatto male? Noi che addomannamo solo un tozzo di pane. Quali vantaggi avete ricavato sinora dal vostro fascio? Intanto i patti agrari. Quelli approvati a luglio al congresso di tutti i fasci che si tenne nel paese di Corleone. Il governo deve convincere i proprietari a firmare e fare un'opera di pace. Oppure continuiamo lo sciopero nelle campagne e i terri seccano. Poi al fascio facciamo conferenze, imparamo a leggere e a scrivere tutti, mascoli e femmine. Ci aiutiamo tra noi fraternamente. Balliamo e ne divertiamo pure. Lo confesso. Mai avrei pensato di sentire delle rozze montanare esprimersi con tale proprietà. Thank you. contadini e giornatari. Negli anni in cui in Sicilia sorgono i fasci dei lavoratori, e così sarà ancora per buona metà del Novecento, stanno all'ultimo posto della scala sociale dominata dai grandi proprietari terrieri, seguiti da gabellotti e borghesi. Sono 700.000, un terzo circa della popolazione totale. Abitano paesi fatiscenti, edificati dai nobili in mezzo ai feudi, con licenze concesse al tempo dei re spagnoli per meglio sfruttarli e controllarli. Quando Adolfo Rossi gira l'isola per la sua inchiesta, l'anno che volge al termine, il 1893, segna anche il picco della crisi economica che da 10 anni tormenta l'Europa. I prodotti agricoli americani, arrivati con il progresso dei trasporti marittimi, hanno spiazzato i mercati del vecchio continente. Cresce il divario tra paesi rurali e paesi più avanti nel processo di industrializzazione. Miseria e disoccupazione aumentano dappertutto. Per i contadini siciliani significa l'imposizione a tappeto del terratico, un tipo di contratto che di fatto li riduce come in stato di schiavitù, privi degli usi civici, vessati dai gabellotti, ferocemente controllati dalla mafia delle campagne. È il 31 luglio 1893. Riuniti a Corleone per il primo congresso di tutti i fasci siciliani, 500 contadini, delegati da tutte le sezioni e tra loro numerose le donne, stabiliscono autonomamente nuove condizioni per i contratti del lavoro agricolo. Punti principali: l'abolizione del terratico e della figura del gabellotto, l'affitto diretto della terra al contadino, l'aumento dei salari per i braccianti. Sono i patti di Corleone. La storia li considera il primo contratto sindacale scritto dell'Italia Unita. I proprietari terrieri rifiutano qualunque concessione e chiamano, come al solito, le guardie campestri. Ma questa volta, nella sorpresa generale, migliaia di contadini, le donne in prima fila, posano le zappe e occupano le strade dei paesi. Organizzati in corteo, passeggiate con fanfara, si chiamano in questa fine Ottocento, innalzano gli stendardi rossi dei fasci e sventolano stracci come bandiere. Chiedono ai proprietari il rinnovo dei contratti agricoli e la firma dei patti di Corleone. La mattina del 12 agosto, a Belmonte Mezzagno, un comune del Palermitano, 50 contadine assediano il municipio. Le donne vogliono l'abolizione del dazio di consumo, la tassa sui beni primari applicata ai frutti del lavoro quotidiano, un sacco di farina, 2 pani, la tassa più odiata di tutte. Pesa solo sui poveri e i contadini devono pagarla ai casotti municipali posti all'ingresso dei paesi ogni giorno tornando a casa dai campi. Lo sciopero si estende ai pastori, costretti a pagare il dazio di consumo persino sulle mammelle delle capre, con il calcolo anticipato di quanto latte potrebbero produrre. Si estende ai minatori delle zolfare, che chiedono aumento delle misere paghe e sicurezza sul lavoro. Sui fasci cominciano ad abbattersi ondate di arresti indiscriminati che non risparmieranno neppure donne sul punto di partorire. Il 27 ottobre... il presidente del Consiglio in persona, Giovanni Giolitti, ordina la scarcerazione di un gruppo di donne di Villafrati per calmare un'ondata mai vista di dimostrazioni esplose dopo l'arresto di una contadina di 20 anni che alla testa di un corteo chiedeva la liberazione di compagne e compagni arrestati il giorno prima, mentre dimostravano per la firma dei patti di Corleone. Il nome di Caterina Costanza, ragazza contadina di Cefaladiana, piomba a Roma sugli scranni del Parlamento, mentre nella capitale e nel regno infuria lo scandalo della Banca Romana. I paesi vengono presidiati dai bersaglieri, ovunque nell'isola e nel regno si pretendono provvedimenti straordinari e l'immediato scioglimento dei fasci siciliani dei lavoratori, ma lo sciopero continua compatto. Per 3 mesi, 100.000 contadini siciliani, uomini e donne, resisteranno ad ogni pressione, cibandosi coi figli solo di fichi d'India. Il numero dei bambini morti in Sicilia di fame e dissenteria negli ultimi 10 anni dell'Ottocento è il più alto del secolo. Il 31 di ottobre, quando Adolfo Rossi viaggia nell'isola già da qualche settimana, un gruppo di proprietari a Villafrati, a Piana dei Greci, a Corleone, cede, firmando una parte dei patti agrari, ma il grosso del latifondo rimarrà sordo e ostile. Viaggio verso Corleone. Dopo Palermo e Catania, questo fascio è il terzo dell'isola per importanza. Ho preso una piccola ferrovia che taglia la Conca d'Oro e scende verso una regione montuosa sempre pittoresca. L'orizzonte è chiuso da cime di alte montagne. Scorgo rovine di antichi castelli. Le stazioni sono tutte deserte a causa dell'agitazione. Quando arriviamo a Ficuzza, una nebbia pastosa sale dai boschi. La vedo addensarsi lungo il bastione di rocca Busambra, che si erge a strapiombo sulle mezzaline, come si chiamano in Sicilia gli altipiani a pascolo. Approfitto di una sosta per visitare il celebre Parco Reale, dove nel 1799 Ferdinando IV il Borbone, scappato a Palermo da Napoli, si fece costruire una sontuosa casina di caccia. Mi fa compagnia un ufficiale dell'esercito regio. Gli faccio la solita domanda sulla situazione siciliana e cosa si dovrebbe fare. Caro Rossi, bisogna risiedere qui per sapere che fare. Un giorno di luglio mi sono fermato con i miei soldati davanti ad un'aia dove si misurava del grano. Da una parte stava il gabellotto, dall'altra un contadino. Finita la misurazione, al pover'uomo era rimasto un misero sacco di frumento. Lui lo guardava impietrito, poi si girava a capochino verso la moglie e i figlioletti smunti. In che campo non dimenticherò quella scena muta. Ci vorrebbe ben altro che l'esercito qui. Ecco Corleone. Sta al riparo tra due rocche dove fiorisce la macchia mediterranea. È detta anche città dalle 100 chiese. Una delle più antiche è questa del Santissimo Salvatore, sulla rocca Soprana. I francescani la edificarono nel XIII secolo, con un bel chiostro profumato. Di fronte sta la torretta degli Arabi, da cui deriva l'antico nome di questo sito, Curlian. Il fascio di Corleone conta 6.000 soci. Si può dire che ne fa parte tutto il paese, meno i signori. Qualcuno di loro ha firmato una parte dei patti agrari, ma i più ricchi si rifiutano, più per non aver l'aria di sottomettersi ai fasci che per motivi economici. Così le loro terre non ricevono da mesi un solo colpo di zappa. Ieri ho partecipato ad una assemblea in cui si discuteva di un mulino a vapore che i contadini del fascio vorrebbero prendere in affitto. La sala era piena zeppa e alla mia solita domanda sulla situazione sono insorti tutti, gridando che invece di mandar qui tanti soldati, un governo giusto dovrebbe spingere i proprietari a firmare i patti agrari e avere la pace. Viaggio verso le province meridionali con un mulattiere che torna al suo paese, Palazzo Adriano, nel cuore dei Monti Sicani. Ho visto che le stazioni dei carabinieri vengono dappertutto rinforzate con picchetti di soldati. A Grotte è stato incarcerato un ragazzo di 12 anni che parlava di socialismo a 200 coetanei riuniti in piazza. In 30 comuni sono state chiuse le sedi dei fasci, arrestati i capi e soci e sequestrate le bandiere rosse. C'è da dire che quando si fanno i processi, i fascianti vengono per lo più assolti nell'entusiasmo generale. ho conosciuto avvocati che li difendono gratuitamente. Colpire i fasci con le leggi ordinarie è impossibile, e colpendoli arbitrariamente, come avviene, si ottiene solo di renderli più forti. Ho notato che questa persecuzione sorda irrita più di una guerra aperta. Scrivo dalla sala macchine di una zolfara nei pressi di Castel Termini, provincia di Girgenti. In questa zona, che comprende 12 comuni, i latifondisti sono proprietari anche del sottosuolo. Al congresso dei fasci dei minatori che si è tenuto a Grotte hanno partecipato 1500 zolfatari e alcuni piccoli produttori che lamentano anch'essi d'essere sfruttati e fanno causa comune con i lavoratori. Alla fine si chiese l'aumento dei salari e l'abolizione della proprietà privata del sottosuolo e del soccorso morto, cioè la compravendita dalle famiglie povere dei bambini di 7-8 anni per il lavoro in miniera. Ho chiesto ai soci del fascio di accompagnarmi nel pozzo. Scendo alla luce tremolante di una lucernina ad olio. L'aria è pesante di gas. Il caldo soffocante. Respirare è una fatica. Sono calato di appena pochi metri quando sento salire dal fondo un coro di voci di bambini, sempre più triste man mano che si avvicina. Lividiti sereno della morte accompagnati, visto di scoreca le componiti, mezzo allo scoro delle vagionati, scendendo alla perrera ognuno mano, porta la solomera per la via, canopi di pe l'ervido chiano, pregano a San Giuseppe e a Maria, mamma non mi mandati alla birrera, mamma non mi mandati alla birrera. Nella mia vita giornalistica ho assistito a scene orribili d'ogni maniera. Niente però mi ha colpito come i carusi della Zolfara. La legge che vieta il lavoro prima dei 12 anni non è fatta rispettare. C'è da vergognarsi di vivere in un paese dove una simile barbarie viene tollerata. Viaggio da Porto Empedocle verso Catania. Il cielo è limpido, la temperatura quasi primaverile. Dapprima ho dovuto prendere una diligenza sgangherata dove si sta pigiati come sardine, si scende con le ossa rotte e costa più di un vagone letto. Da notare che a Girgenti, dove il fascio è poco numeroso, in cambio è l'intera cittadinanza a formare un fascio di malcontenti che al disagio attuale preferirebbe tutto, magari un protettorato dell'Inghilterra. Da principio mi sembrava uno scherzo, ma più proseguivo costeggiando marine di indicibile bellezza e altrettanta miseria, e più l'ho sentita ripetere. In quanto ai risultati della mia inchiesta nella Sicilia centro-occidentale, parto dai fasci femminili. Ce ne sono dappertutto. Le donne portano i figli. A San Giuseppe Jato e a Modica ci sono fasci di fanciulli dai 7 ai 12 anni. Le ragazze dei fasci escono sole di casa anche di sera. La faccenda irrita i ben pensanti, ma il prefetto di Palermo avverte. La contadina dimentica il suo tradizionale pudore prendendo parte attiva all'attuale lotta di classe. Rispetto alla posizione della curia, una buona parte tace, altri esortano a seguire le dottrine sociali di Leone XIII. A questo proposito vi riporto la lettera ai suoi parroci del vescovo di Caltanissetta. I reverendi parroci e i predicatori ambulanti ricordino in ogni occasione ai ricchi, ai proprietari dei feudi e delle miniere, ai gabellotti, ai padroni e ai capitalisti, esser loro principalissimo dovere non tenere gli operai in conto di schiavi, rispettare la dignità dell'umana persona, dare a ciascuno la giusta mercede. Nel mio giro ho visto anche fasci nati da politicanti municipali che strumentalizzano il movimento, altri messi su da mezzi matti o da mafiosi, ma è innegabile che la grande maggioranza è costituita da contadini e operai veri, senza altra mira che il riscatto economico. Arrivo a Catania alle 10 di sera. La città è completamente deserta, manco fossero le 2 dopo mezzanotte. Il fascio di Catania è stato fondato da De Felice il 1 maggio del 1891. Conta 10.000 soci. Sta per aprire una scuola femminile di lavoro. In questa provincia i fasci sono operai ed hanno una fisionomia diversa da quelli del centro dell'isola. Lo stesso a Messina, dove il fascio conta 5.300 soci, per lo più operai in misere condizioni perché disoccupati. I più fortunati lavorano 3 mesi su 12. Le fabbriche che davano lavoro prima della crisi, come la fabbrica di alcol, la manifattura dei tabacchi, la fabbrica di calzature per i soldati, sono chiuse. Il governo continua a promettere l'ammodernamento del porto, ma i soldi non arrivano mai. Ecco lo stretto. Di fronte il continente. Arroccati in cima alle falese, scorgo piccoli borghi antichi. La mia ultima alba nell'isola sorge scivolando sui monti della Calabria. Ho viaggiato per 32 giorni. Ho incontrato uomini e donne che mi hanno stupefatto. Non so se tornerò in Sicilia. Me ne distacco a malincuore. Eccomi a Roma. È la fine di giugno del 1894. Ho appena ricevuto la prima copia del volumetto che raccoglie i miei articoli dalla Sicilia, nella versione integrale quali furono pubblicati 7 mesi or sono. Sono 120 pagine in tutto. Ho aggiunto solo questo epilogo, con le convinzioni che mi ero fatte durante quel giro, così come le avevo riassunte ai lettori de La Tribuna al mio rientro in redazione. Rispetto ai contadini delle altre più povere regioni d'Italia, i siciliani stanno peggio, perché sono vittime di un maggior numero di angherie, di soprusi e di usure. Non solo sono servi di un padrone, ma schiavi di un feudatario e della loro schiavitù devono portare il marchio nel viso completamente sbarbato. Oltre che vittime di questi usi d'altri tempi, i contadini siciliani sono vittime delle tasse comunali, perché costretti a vivere agglomerati in 10, 20 e 30 mila abitanti, adesso si devono pagare i dazi, il focatico e tutte le altre imposte pubbliche che non gli toccherebbero se abitassero nelle campagne come, per esempio, i contadini emiliani. Il contadino siciliano, infine, ha un minor numero di strade e di scuole d'ogni altra regione, eccezion fatta per la Sardegna e le Calabrie, ed ha a che fare con funzionari pubblici corrotti che il governo spedisce nell'isola per punizione. In conclusione, in questa isola che è un pezzo di Eden regalato dagli dèi ai mortali, vi sono zone che paiono africane, dove nelle terre di pochi gran signori stentano migliaia di schiavi ai quali, con l'unità, abbiamo dato il titolo di italiani per poi scientemente ignorarli. Stando così le cose, chi può meravigliarsi del rapido sviluppo dei fasci? Chi può stupirsi che migliaia di contadini laceri abbiano teso le braccia a quelle idee di riscatto? Chiusa con queste parole la mia inchiesta, come avevo previsto me ne partii per l'Africa a studiare la colonia eritrea. Rimasi laggiù dal dicembre 1893 al marzo di quest'anno e non potei tornare in Sicilia durante l'occupazione militare e lo scioglimento dei fasci. Quando rientrai a Roma era tutto finito. L'agitazione soffocata nel sangue. L'isola inondata di truppe che a quest'ora saranno costate milioni. Testimonianza di Niccolò San Giorgi, mastro gessaio, all'epoca di anni 22, testimone oculare della strage del 25 dicembre 1893 all'Ercara Friddi. Registrata nel 1960 dal nipote Nicola, studente, è l'unica voce diretta esistente sulla repressione dei fasci siciliani dei lavoratori. La carrobanera a schiera, mise, non passava nulla. C'era il birra entrato dentro lo stratone, con scoperta, che fece poco, e ne morero con quei 5-6 cristiani. Vinno uno, birrava su quello che faceva il cocco per ammazzare. Perché le coccate con noi fare al tetto cilizio, alle palate, già no, lo comparavo a fare. Dal romanzo I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello, scritto nel 1899, 5 anni dopo la fine dei fasci, edito da Treves a Milano nel 1913. Per Pirandello, amarissimo e popoloso romanzo, ove era chiuso il dramma della mia generazione. 2 cadaveri in quella cassa, uno sull'altro, uno con la faccia sotto i piedi dell'altro. Quello di sopra era d'un ragazzo, divaricate le gambe, la testa affondata tra i piedi del compagno. A guardarlo così capovolto pareva dicesse in quell'atteggiamento: no, no, con tutto il visino smunto, dagli occhi appena socchiusi, contratti ancora dall'angoscia dell'agonia. No, quella morte, no, quell'orrore. No, quella cassa per due, attufata da quel lezzo crudo e acre di carneficina. La più raccapricciante era la vista dell'altro. Di tra le scarpe logore del ragazzo, coi grandi occhi neri ancora sbarrati e un po' di barba fulva sotto il mento. Era d'un contadino nel pieno vigore delle forze. Con quei terribili occhi sbarrati al cielo, dal corpo supino chiedeva vendetta di quell'ultima atrocità, del peso di quell'altra vittima sopra di sé. «Vedete, signore», pareva dicesse, «vedete che hanno fatto». Corrispondenza da Marineo del 3 gennaio 1894. Da Il Siciliano, quotidiano politico-sociale, edito a Palermo dalla tipografia dei fratelli Vena. Marineo, ore 16:40. Vi telegrafo atterrito. I fatti odierni sono i più gravi che siano avvenuti in Sicilia. Alle ore 4 il popolo, esasperato da una situazione divenuta insostenibile, irruppe nei locali del fascio dei lavoratori, chiedendo la fanfara, e ottenutala attraversò le vie principali gridando «Abbasso il municipio! Abbasso le tasse!». Intervenne allora la forza e, malgrado le esortazioni del segretario del fascio agli ufficiali di non fare fuoco contro la popolazione, ad un tratto, senza gli avvisi d'uso, si udì una prima micidiale scarica, seguita da molte altre. La scena fu orrenda. Caddero mitragliate 30 persone, tra uomini e donne, tra le grida di imprecazione e d'ira di una folla divenuta pazza di dolore e di rabbia. I feriti, più di 50, tra cui moltissime donne e bambini, gemevano sulla strada cercando di evitare le altre scariche micidiali. Il paese è a lutto. Le strade sono deserte. 4 gennaio 1894. Il decreto reale che proclama lo stato d'assedio in Sicilia viene affisso all'alba in tutti gli abitati dell'isola. Due giorni dopo sarà esteso alla Lunigiana, dove sono sorti alcuni fasci e ci sono state manifestazioni spontanee di solidarietà con i contadini siciliani. Il presidente del Consiglio, Francesco Crispi, ha fatto rientrare i decreti nelle attribuzioni dell'articolo 5 dello Statuto alla voce «guerra» e ha chiesto al re di firmare. Umberto I ha firmato. Crispi si è insediato alla presidenza del Consiglio dei Ministri il 10 dicembre dopo le dimissioni di Giovanni Giolitti, costretto dalle rivelazioni dell'inchiesta sulla Banca Romana che coinvolgono anche 22 parlamentari. L'opinione pubblica, raggiunta da continue notizie di affarismi, intrighi e corruzioni, vede via via cadere figure illustri di patrioti e governanti, mentre la crisi economica martella il paese da nord a sud. Poi c'è la questione sociale che avanza. In Emilia, nel Cremonese, nel Ravennate, la propaganda socialista fa presa sulle disperate condizioni della classe lavoratrice. In Sicilia, il grande sciopero dei contadini per i patti di Corleone ha registrato qualche successo e i fasci hanno conquistato seggi alle elezioni amministrative. Un incubo per i vecchi ceti moderati del paese. Si sparge la voce di un moto rivoluzionario preparato dai fasci in combutta con potenze straniere. Giorni lunghi tra il tempo andato e il domani. In giugno, a Genova, si è consumata la frattura tra anarchici e socialisti. Il secondo congresso dei socialisti italiani, tenuto a Reggio Emilia, concentra il dibattito sulle esigenze del bracciantato agricolo di tipo capitalistico, trascurando la lotta dei contadini siciliani a rivendicazione della mezzadria. Interpellato al proposito, anche Engels ha faticato a comprendere che il primo movimento popolare nelle forme dell'organizzazione è sorto tra i contadini e il proletariato urbano della regione più arretrata d'Italia. La trama si fece d'ombra, tirando i fili nel sangue. Tumulti improvvisi e violenti, soldati, baionette, carabinieri, notabili e politicanti, provocatori, inganni, calunnie, mafiosi, fuoco e morte. Alla fine, tra il 10 dicembre 1893 e i primi giorni di gennaio, si contarono centinaia di feriti e 97 cadaveri. Anna era la più piccina, aveva un anno. Cadde in braccio alla madre sulle pietre di Marineo, trafitta da 7 colpi di baionetta. Il 4 gennaio 1894 in Sicilia è stato d'assedio. Lo stesso giorno il generale Roberto Morra di Lavriano, che Francesco Crispi ha nominato commissario straordinario con pieni poteri militari e civili, ordina l'arresto dei dirigenti dei fasci. Poi lo estende ai contadini e ai simpatizzanti del movimento, artigiani, professionisti e studenti. Alla fine, gli arresti di massa toccheranno 70 comuni e più di 3.000 persone saranno inviate al confino senza alcun processo. L'atto di scioglimento dei fasci siciliani dei lavoratori arriva con l'editto che sospende la libertà individuale, la libertà della stampa e il diritto di riunione e di associazione. Sulla base delle indicazioni dei municipi, migliaia di persone sono private del diritto di voto. L'8 gennaio si istituiscono i tribunali militari, sono 3, a Palermo, a Messina e a Caltanissetta. Il processo ai capi si apre a Palermo il 7 aprile 1894. Giorno dopo giorno, le udienze si trasformano in denunce aperte. Persuadevo dolcemente i lavoratori morenti di fame che la colpa non è dell'uomo, ma del sistema. Per questo non ho predicato l'odio agli uomini, ma la lotta al sistema, dirà Nicola Barbato ai giudici. Sul Don Chisciotte, Edoardo Boutet, giovane critico letterario napoletano, chiede pubblicamente ragione a Capuana e a Verga per non aver narrato fino in fondo tutto questo. 30 maggio 1894. Garibaldi Bosco, Barbato, De Felice, Verro e i capi locali dei fasci sono condannati al carcere nella fortezza di Gaeta. Stessa pena toccherà a centinaia di semplici contadini e zolfatari, uomini e donne. I giornali di Palermo riportarono che al passaggio delle carrette che conducevano i condannati al porto, una folla enorme di popolo minuto uscì per strada, da via Macheda, da piazza Pretoria, dai vicoli della Calza e dell'Oreto, e insieme agli studenti dell'università, sventolando drappi rossi, li seguì fino al molo cantando l'inno dei fasci e rimase lì, con decine di barchette che salutavano, finché la nave non fu che un puntino all'orizzonte e poi più nulla. Giungo all'ultima pagina del mio libro inchiesta. L'agitazione in Sicilia era economica o politica? Certo, quei giovani socialisti potevano essere ritenuti colpevoli finché volete d'aver predicato ai contadini l'unione di classe, ma al processo nulla fu provato sulla cospirazione politica, ed essi non erano certamente i responsabili dell'inumana miseria dei contadini stessi, nella quale sta la vera origine dei fasci dei lavoratori siciliani. Io ne ho dato testimonianza. Dolore e lutti avranno solo l'effetto di radicare le ingiustizie, la sopraffazione e le mafie che ne sono garanti. Non per questo si spegnerà la brama di riscatto. E intanto le condizioni dei contadini siciliani restano immutate. Marciscono le radici dell'Italia unita. Che cosa si doveva fare? Pace era la risposta per le agitazioni in Sicilia. Com'è vero che le cose più semplici sono spesso le più difficili da capirsi.